Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Quelli di voi che mi seguono, diciamo, come cantante da molto tempo, forse ricorderanno che in un mio album dell'85 che si chiamava Tutto Scorre c'era una dedica dedicato a Klaus Nomi e alle persone care che non ho più. Questo per dirvi che il personaggio di cui stiamo per parlare è veramente un personaggio che io ho nel cuore, lo ritengo un grande genio incompiuto anche per il fatto che è scomparso giovanissimo. Lui era un creativo, era uno sperimentatore di generi musicali diversi, ma soprattutto aveva una voce assolutamente unica, una voce da contralto che univa a una presenza scenica senza pari. È uno che nella sua vita di colpi d'ala ne ha dovuti dare parecchi. È partito come pasticcere, cameriere, ha dovuto lasciare il suo paese, la Germania, per andare a New York dopo essere stato rifiutato da teatri, scuole, insomma, ha trovato il suo spazio solo nella grande mela. Sentiamo intanto, per fare capire di cosa sto parlando a quelli che di Klaus Nomi sentono parlare per la prima volta in questo momento, e ahimè ce ne saranno, sentiamo di cos'era capace Klaus Nomi. Era rock, pop, unito alla lirica, era una voce che diventava uno strumento duttile, e il tutto accompagnato da esibizioni sul palco decisamente all'avanguardia. Si presentava vestito da alieno, si chiamava Klaus Sperber e era nato a Immerstad in Baviera nel 1944. Fin da piccolo era attirato dalla musica, soprattutto dalla lirica. Sentiamo come lui stesso, in un'intervista di fine anni 70 realizzata a New York, ricordava la prima volta che aveva ascoltato l'opera. Ho iniziato da bambino. Ascoltavo sempre la radio ed ero molto interessato ai cantanti. Mi piacevano più di ogni altra cosa. Ma la prima volta che ho sentito un cantante di musica lirica alla radio mi sono detto: Dio mio, voglio cantare così. Mein Gott, so möchtest du auch mal singen. È una passione che sfocia in un talento vero e proprio. Klaus scopre di essere portato per il canto e la sua voce, crescendo, assume tonalità particolari, sì, perché lui è un contralto. Studia musica negli anni 60, però nel suo piccolo paese della Germania non è facile poter seguire le proprie aspirazioni artistiche, soprattutto se sono così originali, perché il contralto è una voce da donna. Eppure la passione di Klaus è comune a tutta la sua famiglia. Sentiamo la testimonianza di sua zia, la zia Trud. In der Familie, hier in Essen. Nella nostra famiglia a Essen ci sono stati diversi cantanti. Quando veniva a casa mia, Klaus cantava in continuazione e faceva anche piccoli spettacoli per me. Spendeva tutti i suoi soldi in dischi. Per questo, quando potevo, gli davo dei piccoli extra. Erano gli anni del dopoguerra. Klaus voleva diventare un cantante d'opera. Questo desiderio lo ha portato a Berlino a una scuola di musica. Lì, per guadagnare un po' di soldi, ha lavorato in teatro come usciere. Così poteva vedere tutti gli spettacoli. Aveva molte ambizioni e aspettative. Si può immaginare un ragazzino di Essen arrivato a Berlino per studiare canto. Il giovane che prima va da Essen a Berlino. Eh sì, perché Klaus è molto dotato, ce la mette tutta, ma non riesce a vivere di sola musica. È costretto a imparare un mestiere, diventa pasticcere e per un po' fare dolci è la sua professione, però non mette mai da parte gli studi musicali. Per entrare in teatro lui le prova tutte, per un certo periodo fa la comparsa e la maschera. E così lui, tra la fine degli anni 60 e i primi 70, alterna il suo lavoro in pasticceria con lo studio, con le sue ambizioni nel mondo dello spettacolo. Lui ha una voce particolare, raggiunge estensioni precluse ai maschi, però non trova ingaggi perché ha una personalità troppo originale, la sua androginia, il suo estro per i costumi, la sperimentazione di forme artistiche che prevedono contaminazioni gli provocano più di un rifiuto. A un certo punto la vita nella piccola città natale diventa veramente stretta, anche perché lui non nasconde la sua omosessualità, si sente soffocare, tenta una nuova carta, va a Berlino dove prosegue la sua formazione canora, però nel frattempo, lo abbiamo detto, lavora come maschera al teatro d'opera della città, conclude gli studi, ma nessun teatro sembra avere un posto per lui. Nessun allestimento lirico prende in considerazione un ragazzo così fuori dalle righe che canta da contralto, quindi parti da donna, ottiene solo rifiuti. Neanche a Berlino c'è posto per lui. Allora prova a dare una svolta alla sua vita, il colpo d'ala, prende la sua decisione, va a New York, che allora è un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Lui è intenzionato a trovare il successo che è convinto di meritarsi. Il falco e il gabbiano. E così ritroviamo il nostro protagonista, che per ora si chiama ancora Klaus Sperber, a New York. È il 1973. New York è un vero e proprio laboratorio creativo, è il posto giusto per uno come lui, che è un estroso, che è diverso da ogni altro cantante, è un performer col gusto della contaminazione e anche dell'esagerazione. Ed è proprio a New York che Klaus Sperber prende il nome di Klaus Nomi. Nomi è un anagramma del latino omni, che significa tutto, allude alla ricerca musicale e artistica che lui sta facendo, che va dal pop al rock fino al canto lirico, il tutto tenuto assieme da una voce assolutamente unica, tuttora unica. Io quando sento le Conchita Wurst me la rido. E nella grande mela ora lui è libero di sperimentare generi, dalla new wave fino alla musica elettronica. E lui è affascinato da New York, che è una giostra luccicante, creativa. Però le difficoltà naturalmente sono ancora molte. Sentiamo come lui stesso racconta il suo primo periodo nella grande mela. Tiravo a lucido pavimenti e lavavo piatti, la classica storia di tanti. E sono andato avanti così per un po', fino a che un giorno non ho avuto un'idea, che poi è diventata sempre più chiara. E lui capisce che per farsi notare deve portare in scena qualcosa che sia del tutto diverso da quello che c'è già. Così le sue esibizioni pensa che debbano essere scioccanti, sbalorditive. Gli spettatori devono chiedersi cos'è e non chi è. Lui inizia a esibirsi in locali che magari sono poco più che scantinati, però diventa una piccola attrazione underground. Il suo nome inizia a circolare, la curiosità attorno a questo personaggio comincia a crescere e lui rimane di giorno cameriere sguattero e di notte cantante animale da palcoscenico. Ma dopo la curiosità iniziale attorno al suo personaggio, la carriera non decolla e non ci sono produttori interessati, nessuno ha voglia di rischiare per lui un contratto discografico. Le cose vanno avanti così fino al 1978. E qui lui debutta al New Wave Vaudeville di New York, un locale famoso per i suoi spettacoli che univano avanguardia, travestitismo, contaminazioni di forme d'arte, di diversi generi. Lui decide di portare sul palco l'aria di Sansone e Dalila, un'opera di Camille Saint-Saëns ispirata a un episodio biblico. Insomma, Nomi porta la musica lirica in un locale di avanguardia, tra un numero di spogliarelle, una canzone rock, un tizio con la fisarmonica. La sua esibizione viene presentata da un giovane vestito come un faraone egizio, insomma un azzardo vero e proprio in una situazione che già di per sé è piuttosto caotica. E per di più lui si presenta in scena con un mantello di plastica trasparente, truccato come una creatura aliena con movenze da automa. Il pubblico ammutolisce, sentiamo un passaggio di quell'esibizione. Quella sera era presente, ricorda che i giovani artisti che si erano già esibiti o stavano per esibirsi, appena Klaus iniziò a cantare, rimasero senza parole, si fermarono tutti dietro alle quinte, tutti furono presi da una grande emozione, così il pubblico che alla fine reagì con grandi applausi, conquistato. Con una canzone, ricorda un'amica tedesca di quegli anni, aveva cambiato la sua vita. E così cominciò a imporsi sulla scena musicale dei locali questo strano personaggio, Klaus Nomi. I locali erano quelli New Wave di New York. La svolta vera e propria arriva quando, tra il pubblico degli spettacoli, si infila uno molto curioso e con le antenne molto pronte a sentire quello che stava succedendo, David Bowie, e rimane ovviamente molto colpito dall'originalità di Klaus Nomi, tanto colpito che lo vuole con sé in TV durante una puntata del Saturday Night Live della NBC. Ve ne facciamo sentire una parte, la canzone è The Man Who Sold the World. Ladies and gentlemen, David Bowie. Siamo nel 1979. L'esibizione al Saturday Night Live accanto a Bowie, che l'aveva voluto con lui sul palco, è il momento di svolta per Klaus Nomi, non solo per la popolarità di Bowie, ma anche perché con quell'esibizione mette a punto un suo personalissimo stile che prevede costumi dadaisti, trucco da maschera kabuki, presa a prestito dal teatro giapponese. E Nomi e con lui Bowie in quel momento si ispirano per i costumi al poeta e artista rumeno Cristian Zara, vero nome Samuel Rosenstock, morto nel 63, padre del movimento Dada. E quella serata per Nomi significa entrare nel mondo dei grandi. Dopo la puntata lui è un party esclusivo con David Bowie, Iggy Pop e molti altri. Nei giorni successivi, passata l'ubriacatura del successo improvviso, mette a punto quello che da quel momento in poi diventa il suo costume di scena più distintivo. È una specie di smoking molto stilizzato, con una giacca a triangolo rovesciato con una forma spigolosa. Sono costumi che decenni dopo hanno ispirato le collezioni di alta moda di gente come Givenchy, Paco Rabanne, Hugo Boss, Jean-Paul Gaultier. Ma non solo, Klaus Nomi ha trovato finalmente il suo punto di forza, presentarsi come un artista unico e mai visto prima, quasi venisse da un altro pianeta. Il primo manager di Nomi, Ron Johnson, racconta così quell'idea di puntare sull'effetto alieno. La gente pensava che venisse da un altro pianeta. Lui pensava di venire da un altro pianeta. E così decidemmo di puntare su questo, sulla sua alienità. E così nessuno sapeva da dove veniva, né chi era davvero Klaus Nomi. E fu incredibile, la più riuscita mossa di marketing che io abbia mai visto nella vita. Dopo gli spettacoli il pubblico voleva conoscerlo, incontrarlo, ma lui non si concedeva. Dopo lo show veniva portato via in limousine, lontano dal pubblico. Non rilasciava interviste. Questa trovata fa crescere l'alone di mistero che circonda Klaus Nomi ed è un fantastico trampolino di lancio. Il falco e il gabbiano. Questa per me è una delle vere e proprie puntate del cuore, perché stiamo parlando di uno dei miei artisti preferiti, un grande genio incompiuto la cui parabola si è interrotta prestissimo, ahimè, poi vedremo come. E intanto siamo arrivati all'inizio degli anni Ottanta. Sulla scena musicale e artistica di New York lui si sta affermando. È uno strano personaggio, punta tutto sulla sua voce, fuori dal comune. Klaus Nomi è la contaminazione tra i generi e ha una presenza scenica che lascia il pubblico senza parole. Tutto nei suoi spettacoli, dalla coreografia ai costumi alla gestualità, mischia retro e futurismo. Lui si presenta sul palco truccato di bianco, come nel teatro giapponese, le labbra disegnate di nero, la pettinatura che consiste in tre corna, due laterali e una centrale, un po' come poi ha fatto il cantante dei Prodigy più recentemente. L'abbigliamento racchiudeva uno stile dadaista, androide, e sul palco lui sembrava un robot, una creatura marziana, la nuova rock star della New Wave, lo definivano in quegli anni. Dalla sua immagine viene realizzato anche un logo proiettato all'inizio dei suoi spettacoli, un po' come l'immagine di Batman proiettata in cielo. E dopo tutta questa gavetta, nel 1980 arriva il primo contratto discografico, il primo album che prende il suo nome, che contiene tre cover, due arie liriche, cinque brani inediti, due dei quali composti dallo stesso Klaus Nomi. E uno di questi brani, forse il più significativo di quel momento dell'esordio, è Lightning Strikes, che è un brano di Lou Christie. E Klaus è a un passo dal successo, quello vero, è dappertutto sulle copertine delle riviste patinate, tra cui Vogue. Il suo personaggio si presta bene alla pubblicità. La sua è una vita senza freni, sperimenta una libertà assoluta, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti sessuali. Salta da un'avventura all'altra, circondato da molti ragazzi, però non ha un compagno fisso, un amore. A un certo punto i suoi amici più stretti iniziano a metterlo in guardia sul pericolo delle malattie venere, anche se in quegli anni non si parla ancora apertamente di AIDS. Ma lui non ne vuole neanche sentire parlare, è convinto che a lui non possa succedere nulla. Si divertiva, però era una persona molto sola. Sentiamo il ricordo della sua amica Gabriella Fari. I tempi difficili erano finiti, almeno dal punto di vista economico. Aveva un bell'appartamento, non faceva più fatica a procurarsi un ingaggio. Sicuramente non aveva problemi di soldi, ma credo che da quando era diventato Nomi fosse più povero di quanto non fosse prima, quando era in Germania, e non per quanto riguarda il denaro. Era una persona molto fragile e questo suo lato diventava sempre più preponderante. Yeah, because he had to also have all the image. Insomma, come spesso accade, l'animale da palcoscenico, una volta spenti i riflettori, è profondamente solo e le avventure non colmano il suo bisogno di essere amato. E in più lui si rende conto di essere un po' bloccato dal punto di vista artistico, perché il primo contratto discografico, è anche questo, è prassi comune, si rivela molto meno vantaggioso di quanto pensasse. Insomma, la sua carriera è ferma, non c'è stato il salto definitivo che lui sperava di fare, e lo aveva intravisto. Iniziano anche problemi finanziari: per attirare più gente ai suoi show è necessario fare dei cambiamenti e lui non può che accettarli. A un certo punto diventa chiaro che Klaus Nomi è molto apprezzato tra gli addetti ai lavori, musicisti, artisti, cantanti della New York di quegli anni. Ai suoi concerti si presentano Basquiat, Warhol, Debbie Harry dei Blondie, però i discografici non puntano su di lui e sui suoi spettacoli, perché fuori dalla nicchia dell'avanguardia newyorkese non hanno successo. Anche solo nel vicino New Jersey la musica di Nomi non viene capita né apprezzata. Insomma, la tournée fuori da New York è un flop, la gente non è ancora pronta. Lui deve arrendersi, deve allontanarsi dal suo mondo e virare verso spettacoli più tradizionali. Non è più il suo mondo. Lui capisce, si adegua, però c'è uno scollamento, una eclissi. Insomma, lo show comincia a essere diverso da quelli a cui Nomi aveva abituato il suo raffinato pubblico di nicchia. Certo, lui è ancora sul palco col costume da marziano e col volto bianco, con i guanti, lo smoking dadaista, però è un cantante con una band fatta da coriste e da musicisti. Insomma, a quel punto bisogna tentare un altro colpo d'ala, perché forse è l'Europa che può dimostrarsi più ricettiva nei confronti di un discorso così particolare come quello di Klaus Nomi. Infatti lui parte in tournée in Europa, ha un discreto successo, prima tappa Parigi, dove i giornali lo definiscono creatura assessuata, clown triste, innamorato della Callas e di Elvis Presley. Insomma, è un fenomeno, una rivelazione. Così J.P. Bommel della RCA francese spiega il successo di Klaus Nomi. Ci siamo innamorati del progetto di Nomi e abbiamo visto in lui potenzialità incredibili. Non sapevamo nemmeno come classificare la sua musica, non capivamo dove dovevamo mettere i suoi dischi nei negozi, tra i dischi pop o nella lirica. Non si poteva etichettare, ma piaceva a tutti, ai bambini, a chi amava la musica classica, a chi seguiva le avanguardie, a chi era appassionato di moda. The cutting edge fashion people. A Parigi i suoi show cominciano a attirare pubblico, ma anche stilisti, designer. Dopo gli spettacoli ci sono le feste, i party esclusivi, dove ci sono le persone che contano. E dopo Parigi è la volta della Germania. Klaus torna a casa quasi da trionfatore, così lo ricorda la zia Trude. Ein halbes Jahr vorher. Era tornato a Essen 6 mesi prima per ritirare il disco d'oro. Era una bella giornata. Siamo usciti in giardino, abbiamo fatto una passeggiata. Era così contento. Quando mi ha salutato, è stato molto affettuoso con me e questo particolare mi ha colpito molto. Ma solo dopo ho capito che era il suo ultimo saluto, il suo addio. Era malato, lo sapeva, ma non aveva detto niente a nessuno. Nel 1982 esce il secondo album di Nomi, Simple Man, e negli Stati Uniti ha un discreto successo, ma lui ormai è malato. È il primo malato di AIDS, ancora prima di Rock Hudson. La sieropositività gli viene diagnosticata una volta tornato a New York e non si sa ancora molto di AIDS, quindi comincia a diffondersi il panico attorno a lui, piano piano si fa il vuoto, tutti hanno paura, ce lo racconta uno dei membri della band di Nomi, Paige Wood. So after Klaus came back from Europe, rientrato dall'Europa, era malato. Realizzammo che era terminale. Gli restava poco da vivere. Di solito ci vedevamo a pranzo e io, quando arrivava, lo abbracciavo e lo salutavo sempre come gli europei, con due baci sulle guance. Ma quella volta no. Ero spaventato. Avevo paura del contagio, così esitai. Lui mi mise la mano sulla spalla e disse: «Non preoccuparti, va bene così». Piansi, e quella fu l'ultima volta che lo vidi. Nel mondo dello spettacolo e nel mondo in generale sta per irrompere l'AIDS, la peste della fine del Novecento, col suo corredo di pregiudizi e di dolore, una malattia che uccideva, una malattia della quale ancora non si sapeva molto. In quegli anni non c'erano i farmaci per tenere sotto controllo il virus e si moriva anche di solitudine. Klaus aveva capito di essere malato dopo la comparsa di alcune macchie sulla pelle, però aveva timore a raccontare la malattia che già allora cominciava a essere chiamata il cancro dei gay. Gli amici fanno fatica a stargli vicini, molti spariscono, anche quando viene ricoverato in ospedale, in pochi vanno a trovarlo. Uno dei pochi a rimanergli vicino fino alla fine è Kenny Scharf, un amico disegnatore. Sentiamolo. The party was over. La festa era finita, ora si trattava di sopravvivere. È stato terribile, è stato un momento tristissimo. Non pensavamo che sarebbe sopravvissuto, e infatti morì. And then it actually did. Klaus Nomi è il primo morto illustre di AIDS, quando ancora della malattia si sapeva poco. Il primo personaggio pubblico americano che ammise di avere contratto l'HIV fu Rock Hudson, ma era già il 1985 e la sua confessione aveva scosso le coscienze in America. Nell'83 Klaus Nomi è da solo. Della malattia si parla con vergogna, le persone che ne sono state contagiate hanno un'aspettativa di vita molto breve, sono circondate da ignoranze, da pregiudizi. Insomma, Klaus Nomi muore solo a New York, è il 6 agosto 1983, e sicuramente la sua carriera era solo all'inizio, chissà cosa avrebbe potuto regalarci. Quello che è certo è che lui ha influenzato la scena artistica di New York in quegli anni, ma non solo in quegli anni, negli anni 2000 gli sono state dedicate mostre in giro per il mondo, mentre una cover di Total Eclipse è stata incisa nel 2001 dal gruppo tedesco Rosenstolz insieme a Mark Almond, a Nina Hagen, Morrissey e degli Smith, ha aperto i suoi concerti con canzoni di Klaus Nomi. Anch'io iniziavo i concerti mettendo 7-8 pezzi di Klaus Nomi in quegli anni, prima che io entrassi a suonare, diciamo. Nel 2004 è uscito un documentario di Andrew Horn intitolato The Nomi Song. Lady Gaga si è ispirata a lui per i costumi di alcuni dei suoi video. E anche il mondo della moda ne è stato molto influenzato. L'abbiamo detto prima, erano tutti ai party per conoscerlo. Da Givenchy a Jean-Paul Gaultier sono diversi gli artisti che hanno disegnato collezioni che si rifacevano apertamente allo stile di Nomi. Gaultier gli ha anche reso omaggio nel 2009, quando ha scelto le sue canzoni come colonna sonora di una sfilata parigina. E noi abbiamo al telefono Giovanni Cervi, che è dell'associazione Respira, curatore della mostra di Klaus Nomi. Buongiorno Giovanni Cervi. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Dunque, la mostra si chiamava Do You Nomi, giusto? Sì. E era una citazione, certo, che lui usava a presentarsi in quel, esatto, modo. Esatto, sì. E in che cosa, secondo te, era unico Klaus Nomi? Per quel che mi riguarda, era unico nella stratificazione dei messaggi che mandava, perché riusciva a essere, da un punto di vista culturale, ad esempio, sia alto che basso, no? Con la musica pop, certo, con l'opera, ma anche con la performance. Quindi era da un certo punto di vista una sorta di fossile vivente, no? Che più scavavi più trovavi cose. Beh, sicuramente era troppo avanti per i suoi tempi, o un pochino troppo indietro, ma molto più concretamente troppo avanti. Ah sì, era decisamente unico. La portata della sua contaminazione, ce ne vuoi parlare un pochino? Cioè di tutto quello che ha generato poi Klaus Nomi, anche di nuovo nel panorama musicale e artistico. Ma guarda, da quello che ho visto negli anni, soprattutto negli ultimi anni, nei 2000, ha contaminato molto il mondo della moda. Certo. E che ci sono stati molti riferimenti sulle passerelle e così. Però anche quando, ad esempio, abbiamo portato la mostra a Berlino, si è rappresentato un pubblico molto variegato, dal suo vicino di casa al regista Andy Horn del documentario che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino. E il suo lascito, secondo me, è soprattutto da sicuramente dei riferimenti iconografici, questo bianco e nero così molto squadrato, e poi alla libertà con cui si possono fare le cose, perché secondo me lui era veramente uno spirito libero e da non sottovalutare anche i riferimenti un po' alla fantascienza, che secondo me si notano in molti artisti, si notano, e lui forse è stato tra i primi nel mondo pop a portare questa... Sì, oltre al fatto di portare veramente un genere musicale unico, così coraggiosi se ne sono visti pochi. Sì, lui era proprio fuori dal mondo in un certo senso. Giovanni, grazie mille e buon lavoro con la tua associazione. Niente. Grazie. Klaus Nomi, l'uomo che ha rivoluzionato per il breve periodo in cui è riuscito a avere successo, ha rivoluzionato la storia del rock facendo delle cose che nessuno è mai stato più in grado di fare, ed è un peccato che così poche persone se lo ricordino. Noi abbiamo cercato di mantenerne viva la memoria, andatevelo a cercare, ascoltate le sue canzoni e mi ringrazierete. Ci sono molte storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala e hanno saputo risalire da delle cadute, e poi storie che sono state interrotte proprio quando stavano cominciando, come quella che abbiamo raccontato oggi. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite di cui volete che noi si parli, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina oppure venite a cercarmi, a cercarci sui miei e sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.